America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Si sta per aprire una settimana di fuoco per gli americani, una settimana chiave sotto ogni punto di vista, e la settimana questa in cui si dibatterà e si cercherà di risolvere la riforma sanitaria, in cui si avverrà il processo di riforma del sistema finanziario, in cui la Federal Reserve deciderà sui tassi di interesse domani, martedì, una settimana in cui avremo importanti dati economici, ad esempio sulla produzione industriale, sui prezzi all'importazione e sui prezzi alla produzione, importanti per l'inflazione. Infine, dopo questa settimana, quando si arriverà, ci si augura, da parte della Casa Bianca al voto sulla riforma sanitaria, il presidente Barack Obama partirà per l'Indonesia e lo abbiamo sentito straordinariamente carico. Eccolo. I don't know how passing healthcare will play politically, but I do know that it's the right thing to do. It's right for our families, it's right for our businesses. It's right for the United States of America. È l'ultima spiaggia per Barack Obama, lo avete sentito dal tono della sua voce. Si tratta della battaglia per la riforma più importante della sua amministrazione e della sua presidenza. Una sfida, quella per la riforma sanitaria americana, che non è riuscita ad essere stata conquistata da nessun presidente americano negli ultimi 50 anni. Ebbene, Obama ci sta per arrivare, si rende conto, dice che forse politicamente sarà un problema, che forse a novembre, quando ci saranno le elezioni di metà mandato, gli americani non gli daranno la fiducia che gli hanno concesso in passato, ma, dice Obama, è la cosa giusta da fare per le famiglie americane. State al mio fianco, andiamo avanti fino in fondo. Per andare avanti fino in fondo, Barack Obama ha bisogno dell'appoggio indiscusso della Camera e soprattutto del suo leader, la presidente della Camera, Nancy Pelosi. If you believe that there should be no... Ecco, la Pelosi scende al compromesso. Il progetto della Camera era leggermente diverso da quello che era stato passato dal Senato. Il progetto della Camera prevedeva un intervento dello Stato con la cosiddetta public auction e soprattutto prevedeva che non ci sarebbero stati dei finanziamenti alle cliniche abortiste. Ebbene, queste due misure invece sono state da una parte escluse dal progetto del Senato, e cioè quella della public option, e dall'altra quella per le cliniche abortiste. Il Senato ha deciso di concedere dei finanziamenti. A questo punto in Senato non c'è più la maggioranza blindata di 60 voti e dunque il rischio nel perseguire una politica di riconciliazione normale è quello del totale fallimento. A questo punto l'unica soluzione per i democratici è di prendere il pacchetto del Senato così com'è, votarlo alla Camera e dopodiché, attraverso una complicata procedura, tornare al Senato per avviare alcune modifiche secondo una procedura di riconciliazione molto particolare. I've been told that my Republican friends are lamenting reconciliation, but I would recommend for them to go back and look at history. Ecco, la terza voce importante è quella del capo della maggioranza al Senato, Harry Reid. Ci dice che nella storia, dal 1981 ad oggi, la procedura di riconciliazione, questo elemento chiave per sbloccare la situazione e trovare il compromesso anche fra i democratici, che i repubblicani attaccano, è stato usato ben 21 volte, soprattutto, sottolinea Reid, dai repubblicani. La partita dunque è aperta, le squadre sono allineate, a partire da oggi si combatterà in Congresso. La settimana, dicevo, sarà di fuoco e non soltanto per la riforma sanitaria, ma perché il senatore Christopher Dodd, presidente della Commissione bancaria al Senato, ha deciso di portare avanti in modo unilaterale, dunque senza l'appoggio dei repubblicani, anche la riforma del settore finanziario. Una riforma chiave, una riforma cruciale che avviene in un momento in cui l'opinione pubblica guarda con sospetto a Wall Street, soprattutto dopo le ultimissime notizie della settimana scorsa. Lehman Brothers aveva barato ancora di più di quanto si potesse immaginare sui propri conti. Ecco, di questa situazione americana, di questa sfida politica su due fronti, parliamo con Marco Vicenzino della Global Strategy Partnership. Gli chiediamo intanto se crede che questo progetto di riforma sanitario passerà. Questo sarà un voto molto morte, non si sa ancora, nessuno sa ancora, può essere una differenza di uno o due voti. Allora quella è una cosa impossibile rispondere, però politicamente quello che vuol dire per Obama, ovviamente lui ha messo la maggioranza della sua capitale politica nella riforma sanitaria, se non riesce a farlo passare nella Camera dei Deputati, nel Senato, allora questo gli danneggia anche di più di quello del danno che gli ultimi mesi, ci ricordiamo bene, ci sono state le sconfitte a Massachusetts, sconfitte a Virginia, sconfitte anche nello stato di New Jersey. Quello che vuoi dire è che Obama ha bisogno di una vittoria e dunque anche una vittoria controversa è meglio di una sconfitta. Per lui sì, adesso non c'è punto di ritorno, lui è arrivato a quel punto che deve andare avanti e se riesce a avere una vittoria con la riforma sanitaria, questo non vuol dire che può essere una, diciamo, una vittoria di poche settimane, però può pagare anche il prezzo a novembre quando ci saranno le elezioni del congresso, ci sarebbe una reazione abbastanza forte. Ecco, per metà mandato, le elezioni di metà mandato di novembre, le prospettive per i democratici non sono buone. Secondo te il fatto di poter passare questa riforma sanitaria aiuterà i democratici a novembre o li danneggerà? Mia opinione è più danno che altro, però ci sono ancora sei mesi e in quei sei mesi ci possono essere altre cose che, diciamo, qua in America come in molti altri paesi, diciamo, i popoli a volte hanno, diciamo, una memoria che non dura più di tre mesi. Allora in questo caso loro cercheranno di far approvare questa riforma sanitaria con l'obiettivo che nei prossimi mesi avranno altre vittorie, altri successi. Gli altri stanno sull'economia, principalmente se l'economia migliora e creano più lavori. Statisticamente, almeno statisticamente, si creano più lavori. Queste sono cose che lui può portare al popolo americano, può dire: abbiamo progresso, la situazione sta migliorando. Bene, allora parlando di economia ci avviciniamo alla finanza. Christopher Dodd ha deciso di portare avanti da solo la riforma finanziaria. Ci riuscirà? Ce n'è bisogno di questa riforma? C'è bisogno di riforma, però sarà molto dura approvarlo e principalmente nella maniera come lo vogliono fare, perché qua in America ovviamente c'è l'impatto di Wall Street che ha molto a che fare. Per gli altri paesi europei principalmente che vogliono una riforma dura sarà difficile fare la stessa riforma negli Stati Uniti. Però in Europa c'è l'euro in crisi, c'è l'idea che Goldman Sachs abbia attaccato la Grecia e comunque aiutato a nascondere certi conti. Abbiamo saputo che Lehman Brothers l'anno scorso ha nascosto importanti prestiti che peggioravano la sua situazione. Insomma, qualche cosa ci vuole di sostanzioso o no? Sì, una riforma per creare più trasparenza, quello sì. Però una cosa è dire più a trasparenza e un'altra cosa è dire cambiare le regole. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci arrivati alla canzone del giorno. Vorrei dedicarla oggi a Charlie Parker, un grandissimo sassofonista, compositore di musica jazz, morto a 34 anni nel marzo del 1955. Era nato a Kansas City nel 1920, è stato stroncato da alcol, da droghe. Parker è uno dei padri fondatori del genere bebop e iniziò a suonare il sassofono a 11 anni, una di quelle storie straordinarie. A 20 anni aveva già rivoluzionato il panorama musicale jazz. La sua vita è stata ovviamente molto travagliata, ma la sua musica ispirò la Beat Generation. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!